Scusate, devo iniziare questo, audio con una grande e grassa anche un po', scusate, risata, perché leggo su pangea.news, un sito noto per le sue posizioni diciamo estremamente aggiornate e avvertite, una intervista a Gianfranco Lauretano e Salvatore Ritrovato, che tra le tante cose che non sto a ripetere perché veramente non si sa dove voltarsi, in cui vabbè, per esempio Salvatore Ritrovato dice che non fa indagini di marketing, scrive ciò che ho dentro, ciò che mi brucia dentro, e questo sarebbe il modo per scrivere la poesia, e vabbè. No, poi è bello che Lauretano, al quale ho rifiutato l'amicizia Facebook, scrive: dunque c'è un rischio, genuflettersi alla mentalità dominante, c'è un ambiente, una nuvola di temi, in questo momento c'è tanta nuvola sopra di me, potete sentire questo, il battito della pioggia ai vetri, che sicuramente a Lauretano e altri potrebbe ispirare delle meravigliose poesie che non leggeremo, ma dice Lauretano, c'è un ambiente, una nuvola di temi che devono essere usati a tutti i costi. La poesia di ricerca, e già qui sbaglia perché nessuno parla mai di poesia di ricerca, solo lui e pochi altri, ma si parla di scrittura di ricerca, continuo a non capirlo, cioè saranno 30 anni che si parla di scrittura di ricerca, ma in realtà di molto di più, dagli anni 40 dello scorso secolo. Poesia di ricerca, post-poesia, no, poesia di ricerca, poesia, e ancora, poesia, la poesia non, che non deve essere assertiva, eccetera. Slogan, espressioni imposte da chi ha i mezzi per imporlo, da chi controlla editori, premi, festival. Dai Gianfranco, dai, richiedimi l'amicizia che te la do subito.